A volte ci vogliono anni, decenni, per diventare un bravo musicista rock. A volte non ci vuole proprio niente. La Casa di Cura Eleonora Duse vi offre il primo corso per musicisti rock con la bocca. Con la bocca. Qual è il tuo strumento? Il mio è la batteria, senti qua. Invece il mio è la chitarra. Il mio è il basso. È facile diventare un musicista rock con la bocca. Non esitare, invia subito un SMS per il tuo provino gratuito al 335 100 7777, con la scritta musica rock con la bocca. Sì, non perdere l'occasione di riscrivere la storia del rock con la bocca. Semplice, facile e veloce. Non esitare. You're listening to Rock FM, kick ass. A pane, burro e rock and roll, sono le 8 e un minuto. Pane, burro e rock and roll. Puntata 129. La tua colazione rock. La migliore in circolazione. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. La colazione che dà assuefazione. Allora, come ogni giorno, diamo il benvenuto anche a coloro che si sintonizzano solo nella seconda ora di diretta. Vi siete persi una prima ora, ragazzi, da sciacquarsi la bocca, ma ne abbiamo una seconda ricca di appuntamenti, costruita solo per voi. A proposito dello spot dei musicisti rock con la bocca, c'è fermento nella redazione di Pane, Burro e Rock and Roll, perché sembra che già da domani inizieremo finalmente i provini con i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici, almeno i più coraggiosi, che si sono iscritti al 335 100 7777, a questo provino, scrivendo semplicemente musica rock con la bocca. Sì, siete già in tanti, ma io continuo, lancio l'appello a voi più timidi, che vi vergognate, ma che lo so che dentro di voi volete diventare musicisti rock con la bocca. Non esitate, siamo insomma una grande famiglia, una famiglia di fulminati, e quindi non vergogniamoci delle nostre azioni. Abbiamo come ogni giorno il film che ci tiene compagnia questa settimana. Dalle fila, dalle abili mani di Mel Brooks abbiamo tirato fuori un balle spaziale, uno Spaceball, che ci terrà compagnia fino a venerdì. Restate con noi qui su Rock FM. Manca l'aria qui dentro. Colonnello! Signore? Non vedo il pianeta Druidia, dov'è? Non siamo ancora in contatto visivo, signore, ma lo abbiamo sullo schermo radar. Vuole che glielo metta in funzione? No, lasci stare, faccio da solo. Bene, signore. Cos'è tutto questo gorgogliare e ribollire? Questo voi lo chiamate schermo radar? No, signore, lo chiamiamo Mr. Coffee. Gradisce? Sì! Sorseggio sempre un caffè quando guardo il radar, lo sa, vero? Lo so, signore. Lo sapete tutti, vero? Lo sappiamo tutti, signore! Yeah. Caro Freak, il momento migliore di Pane, Burro e Rock'n'Roll, il contatto con i piccoli amici. Ma sì, il momento in cui si tocca con mano l'audience, lo zoccolo duro di Pane, Burro e Rock'n'Roll, la tua colazione rock. Ne abbiamo uno di fedelissimo, piccolino, che se Ma ne no. va a quest'ora no, a scuola. No, non dirmi che è sempre lui. È lui, pronto? Pane, Burro e Rock'n'Roll, Pane, Burro e Rock'n'Roll. Sei allegro quest'oggi, Francè? No. Come no? La canzoncina sembrava di... Perché voi siete tutti contenti, che mi sentite felice, ma io sono triste. Lo stavi facendo solo per noi, Francè. Sì, grazie, grazie Francesco. Ma cosa è successo? È successo che, amico mio, ieri a scuola, ci sono andato, no? Sì. Ah, bravo, complimenti. Sì, ma sono per far contenti voi ancora. Grazie, Francesco. Grazie. Ci devi andare a scuola. Insomma, dice, sono andato a scuola, no? Sì. E mi hanno detto, un amico mio mi ha detto, ma lo sai che maravigliosa Franci? No. Sai, essere di capelli, parrucche, truccano, le cose. Ah, ho capito. Allora, spieghiamo per chi non lo sapesse. Francia ha una passione sfrenata per Motley Crue. Metal! Ti hanno detto così perché li hanno visti i capelloni e truccati. I capelli trucco, sì, li truccati. Ma non so froci, vero? Hai ragione, no, non so froci. Quello no. È il glam rock, Francè. No, glam rock. Non ci sarebbe poi niente di male se loro decidessero, tra l'altro, senza disturbare nessun altro, se decidessero di fare le loro scelte libere. Però non sono froci. Era un modo di fare, Francè, capello lungo, truccato, ma quelli di ragazze se ne facevano freak, si ricorda quel video con Pamela Anderson? Ma sì, Motley Crue, grandi donnaioli, grandi donnaioli. Ma chi? Pamela Anderson è tata mia? No, la tata tua è un'altra cosa, no, Pamela Anderson è un'attrice. La tata mia? No, quella è la tata tua, marchigiana, la conosciamo sì, già. No, un'altra. Pamela Anderson è un'attrice. Aveva lo stesso nome. Pamela Anderson è basta, sì. Ma che è la sorella? No, non credo sia parente, assolutamente, Francè. No, non so froci allora. No, ma poi, ripeto, ha ragione Freak, non ci sarebbe comunque niente di male, dillo. Ma questi c'hanno 4 anni e mezzo, e cazzo ne sanno, è facile, mi dicono, mica capiscono. Hai ragione, metal. Hai ragione, Francesco. Siamo in squadra con te, fatti sentire presto. Va bene, allora non sono più triste, eh? No. Vabbè, ti vogliamo sentire cantare. Ciao, Francesco. Ciao. Bravo. Così ti vogliamo. Keeping My Day Away, i Dad, Disneyland After Dark. Spero di averlo tradotto bene l'acronimo. 8 e 14 minuti primi, puntata 129. Questo è Pane, Burro e Rock and Roll. Ho dura oggi, ragazzi. Oggi gnafo, non so com'è sta storia, ma gnafo. Vedo con piacere molti iscritti per il nostro corso per diventare musicisti rock con la brocca. Bravi. Sapete in cosa siamo carenti di interazione? Genitori con difficile educazione per figli rock. O meglio, avevamo una segnalazione stamattina dell'amico che si firma Steno, che ha un problema, dice: tutte le mattine devo smanettare in macchina perché il mio bimbo cambia le frequenze della radio. Quando è che fate un bel cartone animato, tu e Freak, così mio figlio vi ascolta? Il problema è che ha 18 mesi Steno adesso. Non sapremo veramente come comunicare dei bambini di 18 mesi. O meglio, anzi, con Mr. Trombetta dovremmo esserci, La comunicazione è quella lì. Diamo il benvenuto. No, dicevo, a proposito di questo, bambini un filo più adolescenti che vi creano problemi perché non ascoltano quello che ascoltate voi. Devo salutare Luca da Ravenna. Ci sarebbe piaciuto chiacchierare di quello che ci hai scritto. Non aver paura, Luca, rispondici. La redazione mi ha chiesto di fare questa segnalazione. Un saluto alla nostra professoressa Carla. C'è pioggia su Signa. Andrea, ci butta là questa idea. Perché non facciamo la rubrica Il presepe di Pane, Burro e Rock and Roll? Ariele fa la Madonna, Spadino fa Giuseppe e Fricantoni fa Gesù Bambino. Li facciamo tipo gli interventi di Rogna e Frigo. È troppo blasfemo o è molto rock? Mannaggia, perché abbiamo dei radioascoltatori così? Io non me ne capacito. Frick, appena l'ha letta, è andata in brodo di giuggiole. Ci lavoreremo, grazie per la segnalazione. Altri saluti veloci, c'era un'amica che ci ascolta da poco. Vediamo se la ritrovo, eccola qua. Manuela 83, benvenuta a Pane, Burro e Rock and Roll da Genova. Vi ascolto più o meno da un mese e mezzo. Siete veramente unici, grazie. Continuate sempre così, tracu tracu. Tracutra! Proseguiamo dolci, dai! Lui è Peter Frampton, Baby! I love your way! Ah. Pane, burro e rock and roll, ed è subito amore! Shadows go so long before my eyes and they're moving across the bay. Suddenly the day turns into night, far away from the city. Don't hesitate, 'cause your love we'll Baby, I Love Your Way, Peter Frampton. Continua la diretta di Pane, Burro e Rock and Roll. Abbiamo una segnalazione che ci preoccupa, preoccupa la nostra redazione. Segnalazione che arriva da Viareggio. Te la scrive Roberto. Devo confessarvi che in questi anni di Rock FM, anni nei quali da Milano ho avuto piacere di parlare ai radioascoltatori delle altre città, in particolar modo con i radioascoltatori toscani, a volte è capitato di fare delle gaffe involontarie, perché gli amici toscani, spesso e volentieri, con i loro toscanismi, tra virgolette, interpretano le parole che noi diciamo con candore. Allora, Roberto mi scrive: da noi in Versilia la nicchia vincerà, motto col quale voi di Pane, Burro e Rock and Roll spesso e volentieri vi presentate, suona un po' diverso, nel senso che dalle nostre parti la nicchia è un'altra cosa. Roberto comunque ci ringrazia per averlo più volte riportato indietro negli anni con la programmazione musicale di Rock FM, però ci getta così nello sconforto. Quindi chiedo agli amici toscani, ma possiamo andare avanti a dire che la nicchia vincerà o dobbiamo cambiare? Dobbiamo autocensurarci? A parte che anche con quel significato lì, tra l'altro, detto tra me e te, potrebbe funzionare lo stesso, no? Anzi, potrebbe funzionare ancora di più. Tra pochissimi minuti il test attitudinale. Scopri se sei un vero rocker oppure no. Scopri se potrai averla, la tua patente da vero rocker, oppure no. Shake yourself, your every move you make. Quante volte ci siamo occupati delle rockstar, mio caro Freak, in questo spazio radiofonico? 3, 4 Ma non dica stupidate, centinaia di volte. Migliaia, all'interno decine. Del test attitudinale abbiamo parlato delle rockstar e anche quest'oggi parliamo di rockstar, ma soprattutto dei loro hobbies. Ah, come dice hobbies, guardi, io l'ammiro profondamente. Maestro, hobbies. Anche lei in qualità di rocker di riferimento ha degli hobbies? Ha notato il ha degli hobbies? È stato bellissimo, un doppio carpiato. Cosa che ho molto apprezzato. Ce lo dica. Ma raccolgo e conservo caccole. Ce ne siamo accorti sotto il mixer di Rock FM. Sì. Spremo brufoli all'ultimo stadio di maturazione. Sì, tra l'altro ne ho visto uno molto interessante. Lo lasci sulla fronte. Stare e passiamo a un altro hobby, se ne ha. Sì, dunque diciamo che raccolgo motociclette in modellino. Bene, bene, quello che ci si può permettere. Esatto. Va bene. Invece andiamo a parlare del batterista degli Iron Maiden, Nico McBrien. Ah, il mitico Nico. Esattamente lui. Che cosa fa per ammazzare il tempo? Ipotesi A. Ovvero? Affila spade giapponesi e gioca a scacchi. Non sappiamo se contemporaneamente o in tempi non dica disgiunti. Oppure ipotesi B. Gioca golf e pilota aerei ed elicotteri. Qui non se lo chiede se lo fa contemporaneamente o no. Va bene. Ipotesi C. Terza ed ultima. Adora il giardinaggio e possiede un terreno l'equivalente di 2 campetti da calcio. Roba da poco. Robetta, sì. Ecco. Coltivati interamente, pensate, sì, ad ortaggi. Oh. Pensate le perversioni ecologiste di questi. Di questo Nico. Di queste rockstar. Per lavorarlo il terreno, Nico si sposta con una piccola Jeep elettrica. Pure rispettoso dell'ambiente. Ipotesi A, B o C? La soluzione giusta, come al solito, ve la diamo tra poco. La risposta esatta a dopo.